Fecondazione, viene necessaria selezione fra centinaia di milioni di persone. In potenza, non solo la vita è volontà di potenza, ma ogni uomo nasce in uno sterminio, sperminio nella piena innocenza. È l'opposto del peccato originale, involontario terrestre, al di là della morale. La morte non la puoi trovare, la nascita non si può ricordare. Frugo e sfrego ogni genio, ladruncolo nell'iperuranio. Solletico, letimo, traccia di traccia, sopra questa traccia spacca cranio. Ma le grandi fonti di luce non desiderano pedine, la situazione si ribalta e sono io che sputo rime come lampadine. Solo senza un sole, vedi le piccole luci accese. Quando vuoi finire un discorso ma l'hai dimenticato, ricorda che esiste un fine nella responsabilità, ma neanche una fine per la verità. Alla fine l'origine scompaiono, come in questo isomorfismo tra testo e vita, aforistico, pluralistico. In questo caso non è un concept, è un caso. Il punto non esiste, esistono i punti di sospensione. Ogni discorso scrittura un'autocitazione. Se odi chi cita, ricorda che dicendolo ti stai citando. Non c'è l'origine che stai vantando, c'è sempre un algoritmo dietro quello che attualmente viene chiamato random. Non si può scrivere un manuale su diverse strade, il tuo ricordo, le sue percezioni, si apre una stessa autonomamente di contesti, è sociale, si sconnesso da coscienza, di peccati complessi. Mentre di certo c'è solo il fatto che tu sei l'origine dei problemi del gap appena citato, di fronte alle poche frontezze rimaste con sfrontatezze nemmeno degne di punti di sospensione. Tempo di pace, il guerriero punta le armi contro se stesso. Ricerca ossessiva del nemico sfumato anch'esso, preda dell'odierno eccesso. Razionalità ipertrofica come riflesso automatico al non senso. Giustificazione poetica e filosofica di questo processo. Questo è ciò che vedo sul crinale dopo aver fatto saltare i ponti, senza paracadute ma con mille idee. Chissà, forse qualcuno mi servirà. Odio il demone che vuole subito un motivo per tutto ciò che scrivo. Addirittura, che bruttura. I miei concetti sono breakcore, hop. Un salto più in là, tanti salti che non sono mai saldi, niente saldi. Un mio CD è gratis ma solo in apparenza. Richiede investimenti anche solo di te. Tempi. Vuoi fare il bordello? Vuoi fare casino? Vuoi fare bordello? La differenza fra il caos e il tuo bordello è che il primo in un senso divino è la condizione di quello. Se il caos per te significa feste, perché non noti che sei dietro ogni cosa quella è questa? E si manifesta non solo nei rave patetici, fake, eretici, ma soprattutto nei geni e negli schizofrenici. Sei abituato a comprendere tramite una somma di cause, ma quando le cause diventano troppe preferisci inventarne una sola, sostitutiva, come il concetto di strano. Concetto patriacentrico, definito solo dai caratteri attribuiti a quello di non strano, io stano. Le crepe delle opinioni, squarciandole verso l'infinito, la patria dei senza nomi.